io sono Daniele Luttazzi. Il mio pensiero sulla vicenda è che un governo fascista si comporta da governo fascista, ovviamente, la libertà di espressione non viene tutelata e la satira è un'arte che deve essere libera. Vauro è un grandissimo artista satirico, con la sua vignetta indicava le responsabilità di questo governo nel predisporre un piano casa che prevedeva lo scioglimento di diversi controlli nel caso dell'edilizia in zone anche terremotate, a questo appena 2 settimane prima dal tremendo sisma dell'Aquila, e quindi si è voluto colpire lui affinché altri possano imparare la lezione. E è successo anche a me all'epoca di Satiricon e poi con Decameron. Questi signori devono mettersi in testa che la satira la sa più lunga ed è un'espressione di civiltà di un popolo. E purtroppo stiamo regredendo in Italia, ecco. Solidarietà massima a Vauro.